Mezzogiorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. In Olanda al 13% la destra di Wilders, meno di quanto non si aspettasse, vince il liberale Rutte, ma formare governo sarà difficile, prossimi test elettorali in Francia e Germania. Triplicati in un anno gli appalti pubblici irregolari, dice la Guardia di Finanza nel suo rapporto, da truffe e sprechi danni per oltre 5 miliardi di euro. Il nuovo bando per bloccare gli arrivi da alcuni paesi islamici fermato da un giudice delle Hawaii, un abuso senza precedenti, dice il presidente americano Trump. Sarebbero una ventina le vittime di violenza sessuale del finto guru di Torino, la procura indaga mentre emerge un altro caso sempre in città, soldi e sesso per togliere la macumba. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. 349-238-6666 per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp, Effetto Giorno, chiocciolaradio24.it se ci volete scrivere, e siamo in diretta da oggi anche sulla pagina Facebook di Radio 24, oltre che sulla nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno se ci volete vedere, oltre che ascoltare e scriverci se desiderate anche là. Avete sentito nei titoli che in primo piano ci sono le vicende che riguardano l'Olanda, ma prima di tutto in apertura andiamo con le notizie di cronaca che arrivano in questi minuti da Parigi, dove c'è stata un'esplosione nella sede del Fondo Monetario Internazionale. Sergio Nava, buongiorno. L'assistente di direzione è rimasta ferita alle mani e al viso dopo aver aperto un pacco postale nella sede dell'FMI nel 16° arrondissement, Avenue d'Iena. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un petardo che sarebbe esploso verso la fine della mattinata quando la donna ha aperto il pacco. 150 persone sono state evacuate per misura precauzionale. Attualmente la polizia di Parigi starebbe ispezionando non solo gli uffici del Fondo Monetario ma anche quelli della Banca Mondiale che si trovano all'interno dello stesso edificio. Sul posto chiaramente anche la polizia scientifica. Non sono segnalati per il momento danni alla struttura, e per il momento è tutto. E grazie Sergio Nava per questi aggiornamenti. Adesso andiamo, come si diceva appunto, in Olanda per il dopo voto. Siamo in linea con l'inviato del Sole 24 Ore, Michele Pignatelli. Michele, buongiorno innanzitutto. Buongiorno Simone, buongiorno agli ascoltatori. Bene, dunque la destra di Wilders si ferma sostanzialmente al 13% e vittoria per i liberali di Rutte. Adesso, come dire, al di là di una sorta di sospiro di sollievo che è arrivato anche dai vertici europei, formare un governo, come si diceva, sarà piuttosto complicato, no? Naturalmente sì. Comunque il primo dato da ricordare è senz'altro il fatto che la rivoluzione populista, come qualcuno l'aveva chiamata, non c'è stata. Wilders ha guadagnato dei seggi rispetto alle scorse elezioni, ne ha conquistati 20, circa il 13%, come dicevi tu, dei voti, però è rimasto distante dal partito di maggioranza del governo, cioè dai liberali del ministro Rutte, che invece, pur perdendo qualcosa rispetto al 2012, 8 seggi, ne hanno conquistati 33. Quindi molti più di Wilders, che è il secondo partito e che comunque non andrà al governo, perché già era stato ipotizzato una sorta di cordone sanitario da parte degli altri partiti. Tutti hanno detto che non avrebbero voluto allearsi con lui, a maggior ragione ora naturalmente che non ha vinto. Rutte ieri ha detto: abbiamo fermato il populismo cattivo, come quello che aveva portato la vittoria di Brexit e di Trump. Wilders ha detto: non siete ancora liberati di me, e comunque ha dovuto riconoscere che avrebbe preferito vincere. Tu dicevi le prospettive per il governo. Beh, a questo punto non sono semplici, perché il Parlamento è molto frammentato, ci sono ben 13 partiti che hanno ottenuto almeno un seggio. Quello che gli analisti cominciano a ipotizzare è un governo di minoranza, cioè possa avere in campo il primo ministro, il liberale del primo ministro, il partito liberale progressista di 66, è un partito democristiano, ci sono arrivati terzi con 19 seggi, e poi con l'appoggio di un quarto partito che però sarebbe ancora da cercare. Questa è un'ipotesi iniziale, naturalmente le trattative inizieranno subito e probabilmente, come dicevi tu, potrebbero andare avanti anche per settimane. Ti ringrazio, grazie a Michele Pignatelli, inviato del Sole 24 Ore in Olanda per questo punto generale sulle elezioni. E a proposito di avanzata della destra, i prossimi luoghi da tenere d'occhio sono sicuramente la Francia e la Germania. Sentiamo. In Olanda frena l'ondata populista, l'Europa tira un sospiro di sollievo e guarda le prossime elezioni presidenziali in Francia ad aprile-maggio, legislative in Germania a settembre e più in là chissà bene quando anche in Italia. Di certo la vittoria del premier liberale Mark Rutte rassicura le cancellerie di Berlino e Roma che già dai primi exit poll inviano le loro congratulazioni. Una buona giornata per la democrazia, commenta Angela Merkel, la quale subito telefona al premier olandese. Sono sollevato, tweet il leader dell'SPD tedesca Schulz. La destra anti-UE ha perso, ora impegno comune per cambiare e rilanciare l'Europa, dice il premier italiano Gentiloni. Per Hollande, infine, così vince il futuro dell'Europa, mentre il presidente della Commissione Juncker è convinto che i risultati delle elezioni in Olanda saranno un'ispirazione per molti. Nonostante ciò, gli ultimissimi sondaggi continuano in Francia a dare in testa al primo turno Marine Le Pen. Al ballottaggio, invece, perderebbe sia con Macron che con Fillon. Quadro, invece, ancora molto incerto in Germania, dove la cancelliera Merkel punta a un quarto mandato. Sembra però in frenata, dopo un'iniziale avanzata, il partito della destra populista Alternativa. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore. E veniamo, restando all'estero, alla nuova versione del cosiddetto Muslim Ban, che subisce una nuova bocciatura da un giudice. Nuovo smacco per il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che vede un giudice federale delle Hawaii bloccare temporaneamente su base nazionale anche il secondo bando sull'immigrazione. La versione corretta, secondo il giudice Watson, è infatti discriminatoria e danneggerebbe i cittadini hawaiani perché impedirebbe loro di ricevere visite da parenti provenienti dai 6 paesi a maggioranza musulmana interessati dal provvedimento, ovvero Libia, Siria, Sudan, Yemen, Somalia e Iran. Nelle 43 pagine di sentenza, il giudice delle Hawaii ricorda proprio le dichiarazioni del presidente americano e del suo staff per evidenziare come quel decreto rappresenti una forma di discriminazione religiosa nei confronti dei musulmani, violando così la Costituzione americana. Il nuovo bando aveva ridotto a 6 i paesi a maggioranza musulmana interessati, cancellando dalla lista l'Iraq, in risposta alle preoccupazioni espresse dal Pentagono circa le possibili ripercussioni nel rapporto con il governo iracheno, in particolare per il suo impegno nella lotta all'ISIS. Tutte novità che evidentemente non bastano. La bocciatura delle Hawaii ha infatti preceduto di sole poche ore il probabile stop di altri 2 tribunali, quello dello stato di Washington e del Maryland, mandando su tutte le furie Trump. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Per quanto riguarda l'Italia, ci sono da registrare di questa mattina le parole del Presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, che era in visita ad Avellino e che ha ricordato oggi la figura di Marco Biagi a pochi giorni dal 15° anniversario del suo assassinio. Quello che va esteso, dice Gentiloni, è l'assistenza e l'accompagnamento del lavoratore da parte dello Stato. Estendere gradualmente a tutti le tutele sul lavoro. In questa direzione deve muoversi l'attività dell'ANPAL, che è l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, il cui funzionamento, insomma, al momento non è ancora completo. Sono di oggi intanto i dati della Guardia di Finanza che riguardano appalti pubblici e non solo quelli. Lo scorso anno gli appalti pubblici irregolari sono triplicati per un valore complessivo di 3,4 miliardi a fronte del miliardo scoperto nel 2015. L'allarme arriva dal rapporto annuale della Guardia di Finanza, secondo la quale, sempre nel 2016, sprechi e truffe nella pubblica amministrazione hanno provocato un danno all'erario di oltre 5,3 miliardi, in crescita rispetto ai 4 miliardi dell'anno precedente. E sono quasi 4.000 le indagini aperte dalla Guardia di Finanza per i reati contro la pubblica amministrazione. Indagini che spaziano dall'abuso di ufficio al peculato, dalla corruzione alla concussione. Sul fronte evasione fiscale e frodi IVA, i finanzieri hanno effettuato 1 milione di controlli e sequestrato 781 milioni. Scoperti anche oltre 19.000 lavoratori in nero e sequestrati beni per 2,6 miliardi alla criminalità organizzata. Apprezzamento per il lavoro svolto dai finanzieri arriva dal ministro dell'Economia, Piercarlo Padoan. Da un più efficace contrasto all'evasione e alle frodi, dice, derivano risorse per il taglio delle tasse e il sostegno alla crescita. Teresa Trillo, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. È stato approvato alla Camera un emendamento al decreto legge sicurezza presentato da Forza Italia ma sostenuto dal relatore, che prevede la possibilità dell'arresto in flagranza differita per i soli reati in cui l'arresto è obbligatorio. Cosa vuol dire? Se c'è un reato con violenza alle persone o alle cose che avviene durante le manifestazioni pubbliche e viene ripreso dalla telecamera in immagini fotografiche e che l'identificazione avvenga non oltre il tempo necessario per arrivare all'identità del reo, entro 48 ore dal fatto. notizie che arrivano dal Parlamento, anche quelle che riguardano Minzolini, Augusto Minzolini. Il Senato ha respinto la decadenza di Minzolini dal ruolo di senatore, un voto contro la decisione che c'era stata in giunta, con 137 favorevoli. Intanto siamo al giorno dopo la mozione di sfiducia a Lotti. Luca Lotti resta al suo posto. In Senato il governo supera lo scoglio della sfiducia contro il ministro dello sport, Fedelissimo Renziano, indagato nell'inchiesta Consip. Grazie ai voti della maggioranza, con l'esclusione degli scissionisti del PD che sono usciti dall'aula come i senatori di Forza Italia, l'Assemblea di Palazzo Madama ieri sera ha bocciato la mozione presentata dal Movimento 5 Stelle, secondo cui quello emerso dall'inchiesta di Napoli è un vero e proprio sistema Renzi che in un paese civile basterebbe a far cadere un governo. Usano me per colpire la stagione renziana delle riforme, contrattacca invece Lotti, che definisce calunnie le accuse mosse nei suoi confronti dall'amministratore delegato della Consip, Marroni. Il Movimento 5 Stelle cerca visibilità, ma è stato respinto con perdite, aggiunge invece Renzi, che definisce poi inqualificabile la richiesta di dimissioni avanzata dagli scissionisti del PD nei confronti di Lotti. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Roma. Siamo alla pagina della cronaca italiana, iniziando dall'interrogatorio e più in generale dagli sviluppi giudiziari che riguardano l'oste che ha ucciso un ladro nell'Odigiano. Verrà nuovamente ascoltato Mario Cattaneo, l'oste tabaccaio titolare dell'osteria di Casaletto Lodigiano, dove venerdì scorso ha ucciso un ladro rumeno, colpendolo alla schiena con il suo fucile da distanza ravvicinata dopo che quest'ultimo era entrato insieme a dei complici per rubare nel suo locale. Cattaneo è accusato di omicidio volontario. Il procuratore della Repubblica di Lodi, Domenico Chiaro, ha ribadito che sono ancora molti gli interrogativi da chiarire. I confini della legittima difesa, dell'eccesso di legittima difesa o dell'omicidio volontario passano da una serie di dettagli che devono ancora essere verificati. E oltre a risentire il ristoratore, in giornata gli investigatori intendono ascoltare anche il fratello della vittima. Nel frattempo continua nei bar della zona la raccolta di firme denominata Io sto con Mario. Sono già oltre 400 le persone che hanno voluto esprimere la loro solidarietà al ristoratore. E per sabato si attende la manifestazione promossa dal sindaco di Casaletto Lodigiano e da altri sindaci della zona, sempre a sostegno di Mario Cattaneo. Adriana Fracchia, Radio 24. Il Sole 24 Ore. Maltrattava e picchiava i bambini, li apostrofava quotidianamente con frasi come ciucci, cretini, stupidi, ritardati mentali. Per questo un insegnante della scuola primaria di Amorosi, e siamo in provincia di Benevento, è stata scoperta e sospesa dal lavoro per un anno. Il provvedimento è stato emesso al GIP del Tribunale di Benevento, è stato notificato dagli agenti della squadra mobile. Andiamo a Torino adesso però, dove si allargano le indagini sul sedicente guru che ha violentato una ragazza e a quanto pare non solo lei. Una brutta storia di violenze fisiche, psicologiche e di soprusi, un caso che già fa emergere almeno un'altra storia simile a Torino e che ora spinge i protagonisti ad accusarsi a vicenda. Nella storia del mago Santone, che avrebbe soggiogato e violentato molte donne, entrano numerosi personaggi, fra i quali il ragazzo che sarebbe stato il fidanzato della giovane donna che dopo mesi di violenze ha deciso di denunciare. Giorgio, dal carcere dove si trova da oltre 10 giorni, racconta di essere stato anche lui, insieme a sua madre, vittima di Paolo Meraglia, di essere stato per 13 anni di fatto nelle sue mani. Il ragazzo, oggi 22enne, è accusato di aver fatto parte della setta che per mesi ha violentato la sua fidanzata, appena 16enne, dall'agosto del 2015 a luglio 2016. Insieme a Paolo Meraglia, 69 anni, al centro della vicenda anche Biagino Viotti. Una seconda storia emersa nel torinese in queste ore riguarda Guido Cattò. È stato arrestato con l'accusa di aver circuito e sottratto denaro ad almeno 2 donne, una delle quali avrebbe anche subito violenza. Filomena Greco, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Torino. Una notizia arrivata poco fa, questa mattina, il presidente dell'Ordine dei giornalisti, Enzo Jacopino, si è dimesso. La decisione è stata comunicata al termine del Consiglio. Dice: considero concluso il mio mandato, era una decisione presa quasi un anno fa, volevo completare il percorso della legge sull'editoria. Ora siamo nella fase del decreto attuativo, una notizia in qualche modo ci riguarda. Veniamo all'arte, Palazzo Ducale a Genova, ospita da oggi fino al 16 luglio una delle mostre più attese dell'anno, è quella dedicata al genio di Amedeo Modigliani. Sono esposte circa 60 opere, tra cui 30 dipinte e vari disegni, per approfondire l'intero percorso creativo del maestro livornese. Lo scopo è mettere in risalto il grande valore della ricerca di Modì nel clima unico della Parigi d'inizio Novecento. Uno dei curatori della mostra è Stefano Zuffi, al microfono di Adriana Fracchia. è una mostra dedicata ad Amedeo Modigliani ed è proprio centrata su di lui. E per questa ragione abbiamo percorso la vita di Modigliani presentando le sue opere intorno ad alcuni nuclei caratteristici tematici. Quindi i ritratti delle persone con cui lui era in rapporto, poeti, letterati, pittori, galleristi, le donne della sua vita, il nudo, il rapporto tra pittura e scultura. Modigliani è un pittore che si concentra moltissimo sul volto umano, maschile e soprattutto femminile, e questa è proprio una costante della sua, peraltro purtroppo breve, attività, perché Modigliani è morto molto giovane e quindi tutta la sua opera si condensa in meno di 10 anni, e il volto è evidentemente il punto di ricerca costante e appassionato di Modigliani sotto le forme più diverse, in una intensità, ecco, che non è affatto e non è mai una riproduzione, diciamo così, oggettiva, fotografica della persona, ma una interpretazione sentimentale. Così dunque la mostra di Modigliani. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade e poi ci ritroviamo subito dopo. Iniziamo il nostro giro per l'Italia, che andrà in diretta, così come la prima parte della trasmissione, come vi abbiamo detto, da oggi anche sulla pagina Facebook di Radio 24, oltre che sulla pagina Facebook di Effetto Giorno, www.facebook.com/effettogiorno, dove dunque ci potete anche vedere oltre che ascoltare. Ovviamente va tutto in onda anche sulle nostre frequenze. Giro per l'Italia che inizierà dalla Campania, dove arriva notizia che il presidente De Luca starebbe preparando una sorta di sanatoria per 70.000 case abusive, dando la possibilità ai comuni di fatto di non abbatterle. Ne parleremo con uno dei maggiori esperti di abusivismo, soprattutto in Campania, e un ex magistrato. E poi un nuovo caso di una donna uccisa dal suo uomo, un caso avvenuto in maniera simile a quello che è successo a Vicenza, dove, lo ricorderete, a Gambellara ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, un uomo si è lanciato con la sua auto contro un mezzo pesante, avendo a bordo sua moglie. Si è appreso poi che era appunto quello che potremmo definire un femminicidio. È successo di nuovo, è successo in provincia di Pordenone, e continua a porsi il tema di come tutelare le donne che denunciano gli uomini violenti. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp, e se volete potete anche commentare sulla pagina Facebook di Radio 24 su quella di Effetto Giorno, dalla quale andiamo in diretta. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato del ferimento di un'impiegata del Fondo Monetario Internazionale per una busta esplosiva che è arrivata nella sede di Parigi. Abbiamo parlato dell'Olanda, dove la destra di Wilders arriva al 13% e si aspettava di prendere di più, e vincono i liberali di Rutte. Abbiamo parlato dei dati della Guardia di Finanza che ci dicono che sono triplicati in un anno gli appalti pubblici irregolari, almeno quelli scoperti. E poi abbiamo parlato di Trump. Il nuovo bando per bloccare gli arrivi da alcuni paesi islamici è stato fermato da un giudice delle Hawaii, e c'è l'ira del presidente americano. Adesso iniziamo il nostro giro per l'Italia, e lo iniziamo da Napoli, o più in generale dalla Campania. Che cosa succede? Riporta oggi Marco De Marco sul Corriere della Sera che è in preparazione da parte della Regione Campania una legge, un nuovo provvedimento che riguarda l'abusivismo edilizio, e il cuore di questo provvedimento è quello che fa più discutere, soprattutto è questo: i comuni avrebbero la possibilità, gli verrebbe data la possibilità ai comuni di non abbattere più le case, ma di fatto di prenderne la proprietà e poi darle in affitto. E questo vorrebbe dire in sostanza darle in affitto, per tutta una serie di motivi, probabilmente alle stesse persone che in questo momento le abitano. E c'è chi la chiama una sanatoria mascherata, un condono mascherato. Noi siamo in linea con Aldo De Chiara, chi è ex avvocato generale della Corte d'Appello di Salerno, ex vice procuratore generale di Salerno e soprattutto uno dei massimi esperti di abusivismo edilizio in Italia. Se ne è occupato nella sua carriera di magistrato, a lungo carriera di magistrato che si è appena conclusa perché adesso in pensione. De Chiara, buongiorno e benvenuto ai nostri microfoni. Buongiorno. buongiorno a voi ascoltatori, a lei. Allora, è una sanatoria mascherata una cosa di questo genere? Perché dichiara, voglio poi precisare con gli ascoltatori che cosa si intende, i sindaci, soprattutto i sindaci dei piccoli comuni, devono rispondere ad un certo elettorato. Questo elettorato è composto anche delle persone che occupano le abitazioni abusive che se le sono costruite nel corso degli anni, e poi è difficile dire a queste persone ti abbatto casa, no? È chiaro che comunque finiranno per non abbatterle, è facile che non le abbattano, no? Certamente è condivisibile quanto lei ha detto. Io però non parlerei di sanatoria, perché comunque la regione Campania, con la iniziativa assunta, suggerisce ai comuni di applicare una delle sanzioni previste dalla legge, ovvero l'acquisizione di quegli immobili realizzati abusivamente, ove non presenti vincoli di inedificabilità assoluta, idrogeologici e via dicendo, mediante la concessione in locazione, in genere agli stessi attuali occupanti, mediante la riscossione di un canone. Quindi io non parlerei di sanatoria, ma di privilegiare per determinati immobili la sanzione meno invasiva dell'acquisizione al patrimonio comunale e successiva concessione in locazione. Tuttavia, a mio giudizio... Qua dicono, dichiara, però lei potrà rispondere come magistrato, è ovviamente una cosa impossibile. Qualche ascoltatore dice, bisogna far così, dice, fai sì che quei 70.000 che occupano le abitazioni abusive, quelle famiglie non votino per un tot di anni. Beh, non penso che si possa comprimere in questo modo il diritto di voto, ma è chiaramente quasi una battuta, dichiara. Però voglio dire che comunque è una ipotesi normativa che presenta notevoli punti deboli. Ad esempio, non specifica che cosa debba intendersi per abuso di necessità. Non indica quali requisiti soggettivi di condotta e di reddito debbano avere i soggetti destinatari del provvedimento in esame, né prevede meccanismi idonei ad evitare manovre saldine, certo. Perché uno dei presupposti di fondo è che queste persone non abbiano altro immobile che quello da acquisire. E spesso questi soggetti si sono disfatti di un immobile di proprietà mediante alienazione. Ecco, tra l'altro dichiara, le aggiungo questo, ed è una sollecitazione, ci arrivano dagli ascoltatori le sollecitazioni su questi temi al 349-238-6666 via WhatsApp e via SMS, se volete potete continuare. Dice un ascoltatore, un'ascoltatrice, Silvia, dice: siamo in una zona ad alto rischio sismico e vulcanico, e qua c'è anche un problema di mancate certificazioni di queste abitazioni, quindi tu te le prendi, no? Poi magari le riaffitti, però poi c'è tutta una questione da tenere presente che va oltre, se vogliamo. Ma è chiaro che prima di concedere in locazione, il comune che ha acquisito l'immobile deve certificare che non ci sono pericoli per l'incolumità pubblica e privata e quant'altro richiedono le leggi vigenti. Ma io voglio evidenziare un punto molto importante. Che fare degli immobili che comunque debbono essere abbattuti? E io credo che qui la Regione, in questa ipotesi normativa, avrebbe potuto e dovuto, a mio giudizio, prevedere l'esercizio di un controllo sostitutivo ad opera di questa Regione, sì, allora quando i comuni risultano come sì, consueto. Sì, per essere chiari, mi scusi, De Chiara, quello che sta dicendo lei, nel momento nel quale l'abuso edilizio è fatto in un luogo talmente incredibile che non può non essere abbattuto, per esempio sul letto di un fiume, oppure in un luogo dal punto di vista archeologico e naturalistico, in un luogo dove non può stare, là deve intervenire la Regione e dirgli: caro comune, tu non puoi. Fatto, lo faccio io. Sì. E questo mi aspettavo che la Regione prevedesse in questa iniziativa. E in questo momento non è previsto. No, non è previsto. E questo ovviamente presta il fianco a critiche che parlano, sia pure impropriamente, di sanatoria e di mettere tutto in qualche modo, non dico a tacere, ma di comporre i rapporti tra elettorato e Certo. La ringrazio. Grazie ad Aldo De Chiara, che è stato Avvocato Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Salerno e Vice Procuratore Generale di Salerno, tra l'altro autore di una serie di libri nei quali si parla anche di questi argomenti. Grazie per essere stato con noi. E adesso ci spostiamo al nord, ci spostiamo a Pordenone, in Friuli Venezia Giulia, dove siamo in linea con Maria De Stefano, Presidente e Cofondatrice di Voce Donna. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno. La vicenda è questa, è una vicenda molto simile a quella che abbiamo raccontato nelle scorse ore ed è una vicenda di cronaca molto simile a quella che abbiamo raccontato da Gambellara, provincia di Vicenza, dove un uomo, ve l'abbiamo detto, la storia l'abbiamo raccontata, ha deciso a un certo punto, caricando la moglie in macchina, visto che si stavano separando, di commettere di fatto l'omicidio di questa donna, almeno questo sospettano gli inquirenti, poi tutto andrà accertato anche se è molto difficile da accertare, andandosi a schiantare contro un mezzo pesante in auto, avendo in auto appunto sua moglie. Un fatto simile è successo nelle scorse ore proprio a Pordenone. Vittima una donna indiana naturalizzata italiana che appunto è stata caricata in macchina dal marito e si sono andati a schiantare, morendo entrambi e tra l'altro uccidendo anche la persona che era la guida del mezzo pesante. De Stefano, il punto è questo, è lo snodo che ci interessa. Questa donna aveva denunciato il marito, aveva denunciato le violenze del marito e tra l'altro parliamo di una persona che il marito che aveva subito un TSO, parliamo di una persona fissata con le scie chimiche, insomma con un po' di questioni mentali di fondo che c'erano. Com'è stato possibile che avvenisse una cosa di questo genere e che questa donna fosse avvicinata di nuovo? Guardi, questo non lo so, lo accerteranno gli inquirenti. Quello che so è che la signora si era rivolta a noi già nel mese di dicembre, metà dicembre, in quanto era molto confusa. Il comportamento del marito era violento dal punto di vista psicologico, nel senso che era ossessivo, la controllava, ma la signora a volte aveva l'impressione di essere lei a non essere giusta, insomma, ad avere dei problemi, per cui si era in primo momento rivolta a una psicologa, lì poi aveva trovato dei volantini e ci aveva chiamato. Era apparsa dopo i primi colloqui la situazione di grande disagio, diciamo, del compagno. Senta De Stefano, sì. Da quel che ho capito però, due giorni prima era successa sostanzialmente la stessa cosa, cioè il marito aveva fatto lo stesso tentativo, aveva iniziato a guidare come un matto, si era schiantato e lei era finita in ospedale con un trauma cranico. Sì, e questo è quello che ho letto anch'io, l'ho letto dalla stampa, perché io non sentivo più la signora da 15 giorni, da quando il marito aveva appunto subito questo trattamento sanitario obbligatorio e quindi non era più in casa con lei. E lei era fermamente decisa nel momento in cui sarebbe stato dimesso a non farlo rientrare in casa e quindi si sentiva tranquilla, almeno nell'ultima telefonata che abbiamo avuto, e lei si sentiva tranquilla perché il marito non sarebbe andato ad abitare da lei. E così poi ho saputo che è stato, il marito non è rientrato in casa. Tutto il resto lo apprendo dalla stampa. L'unica cosa che mi viene da pensare, conoscendo la signora, perché ormai la sentivo spesso dal mese di dicembre, che lei era molto consapevole che era a rischio, per cui mi sembra veramente strano che lei abbia accettato di salire in macchina e soprattutto che non abbia chiesto aiuto. Allora io mi chiedo se la signora era in condizioni di poter chiedere aiuto anche nel momento in cui c'è stato il primo incidente, cioè la signora aveva il cellulare con sé. Senta, mi chiedo questo. Ha potuto chiedere a qualcuno. La signora, scusi, finisco. Prego, prego. La signora non guidava, non aveva la patente e non aveva parenti qua. L'unico punto di riferimento eravamo noi o comunque il fratello del marito, il cognato. Mi viene da farle questa domanda, De Stefano, e che riguarda più in generale i meccanismi di protezione di queste donne che denunciano le violenze. E i giornali di queste ore riportano la lettera e l'intervista di Jessica, la ragazza sfregiata dall'acido a Rimini dal suo ex compagno, dal suo ex fidanzato, che lo abbiamo raccontato, lo aveva denunciato, i giudici avevano stabilito che dovesse stare ad una certa distanza da lei e questa distanza era stata poi ridotta a pochissimo perché viveva nel palazzo accanto, dopodiché i giudici avevano stabilito che dovesse stare nel suo domicilio lui, e poi però lei racconta oggi era sempre in giro, lo si vedeva sempre in giro. Allora c'è un difetto di protezione, di controllo di queste persone che sono pericolose e che sono a rischio? Guardi, mi viene da dire sì, forse la violenza sulle donne in qualche caso è ancora sottovalutata. Le aggiungo perché mi scrive un ascoltatore o un'ascoltatrice, sì. Chissà, al 349-238-6666, chi ha avuto l'esperienza di andare alla polizia a denunciare uno stalker sa che questo non serve assolutamente a niente. Questo è l'impressione che hanno anche molte donne che vengono nei centri antiviolenza. Noi comunque diciamo che la denuncia è la strada giusta. Chiaramente però bisogna poi essere in grado di proteggere la signora e di non lasciarla in balia del maltrattante. Ripeto, forse è ancora sottovalutata. Penso che sia importante, necessario, quasi fondamentale, direi io, una formazione continua rispetto a questo fenomeno di tutti gli operatori che impattano con la violenza. Continua, dico, non una tantum, perché è un fenomeno talmente multifattoriale, diciamo così, ha talmente tanti aspetti, alcuni addirittura oscuri, no? Sì. Perché ci sono dei comportamenti, sì, ambigui da parte delle donne, eccetera, che bisogna conoscerlo a fondo. Sì. Per quanto riguarda la signora... Sì, e c'è evidentemente, De Stefano, mi sembra capire, anche un difetto di preparazione, a volte anche delle forze dell'ordine. Io devo chiudere, quindi la ringrazio. Grazie a Maria De Stefano, presidente e cofondatrice di Voce di Donna, appunto, di Pordenone. Adesso ci fermiamo. Siamo sempre in diretta sulla nostra pagina Facebook, www.facebook.com/effettogiorno, così come quella di Radio 24, a partire da oggi la telecamera. Però non mi piace tantissimo come è piazzata, perché mi vedete da qua, di lato, da sopra, un po' strana, vediamo se si riesce a correggere. Sono d'accordo anche gli altri colleghi che vanno in diretta su Facebook, naturalmente, e vabbè, insomma, comunque così è. Adesso andiamo a sentire cosa succede sui mercati, poi ci ritroviamo subito dopo e avremo ancora il tempo per fare il giro che stiamo facendo quotidianamente. Abbiamo deciso, come sapete, di non abbandonare i comuni colpiti dal terremoto e continuiamo a non abbandonarli, ne parliamo anche oggi. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. I nostri titoli: in Olanda al 13% la destra di Wilders, meno di quanto non si aspettasse, vince il liberale Rutte ma formare il governo sarà difficile. Dopo la mozione di sfiducia a Lotti, che non è andata in porto come sapete, non viene fatto decadere il senatore di Forza Italia Augusto Minzolini, 19 del PD votano contro la decadenza e il Movimento 5 Stelle attacca. Sono triplicati in un anno gli appalti pubblici irregolari, dice la Guardia di Finanza nel suo rapporto, da truffe, sprechi, danni per oltre 5 miliardi di euro. Sarebbero una ventina le vittime di violenza sessuale del finto guru di Torino, la procura indaga la borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo, mentre arrivano brutte notizie dalla Francia, dove a Grasse, nel sud del paese, c'è stata una sparatoria in un liceo con diversi feriti a fare fuoco. Nella scuola Tocqueville, nelle Alpi Marittime, sarebbe stato un uomo in possesso di diverse armi. Secondo la polizia, l'aggressore ha aperto il fuoco contro il preside, poi sono rimasti feriti diversi ragazzi. Appena avremo aggiornamenti, naturalmente ve li daremo. Andiamo adesso però alle cronache dal terremoto. Luigi Cannavicci è il sindaco di Campotto Tosto, provincia dell'Aquila. Buongiorno sindaco, benvenuto. Buongiorno a voi. Allora, colpita soprattutto dal terremoto del 18 di gennaio, come vanno le cose sindaco? Guardi, siamo ormai a 2 mesi di terremoto, ma siamo ancora in pienissima emergenza. Le attività che stiamo svolgendo in questi giorni sono semplicemente quelle di riduzione delle zone. Allora, sindaco, abbiamo dei problemi di connessione, mi sembra notevoli. Io non so se dipendono dai danni successivi al terremoto o dal fatto che siete evidentemente in zone nelle quali il telefono non prende bene. Sono chiaramente delle zone di montagna, delle zone nelle quali, appunto, tra l'altro a Campotosto c'è anche una diga, uno di quei grandi invasi dei quali abbiamo raccontato e che sembravano essere a rischio, almeno nelle iniziali parole del ministro Graziano Del Rio quando raccontammo appunto del terremoto, e poi diciamo questo allarme sulle dighe fu smentito. Vediamo se Laura Faggino è in grado di farci sentire, se il sindaco di Campotosto è tornato con una linea decente. Cannavicci c'è? Sì, ci sono. Vediamo un attimo se qua, magari si è spostato un attimo, se qua prende meglio. Allora ci dica come vanno le cose, ci diceva siete ancora in piena emergenza, no? Sì, siamo ancora in piena emergenza, come dicevo stiamo riducendo le zone rosse, prima gradualmente, nel senso che abbattiamo le abitazioni più lesionate più gravemente e cerchiamo di puntellare quelle che è possibile puntellare in maniera tale da poter rendere accessibile parte del paese. 70-80% delle abitazioni lesionate e sì, nessuno sì. Che vive là adesso al momento? No, diciamo al momento all'interno di abitazioni in muratura non vive nessuno, tranne me, che ho una casa agibile, quindi sono rimasto a casa. Per quanto riguarda gli altri sono tutti sfollati, il 100% della popolazione del comune è sfollato. Sono o nelle abitazioni, nei moduli abitativi provvisori all'Aquila, quindi, e gli altri li abbiamo ospitati nei moduli abitativi provvisori che abbiamo qui in comune, che sono stati realizzati nel 2010-2011 dopo il terremoto dell'Aquila. Aspettate altri moduli provvisori, aspettate le famose casette. Immagino. Sì, aspettiamo le famose casette come tutti. Stiamo adesso raccogliendo domande delle persone che hanno diritto, perché queste vengono concesse ovviamente soltanto a chi vive qui e ha la casa dichiarata. Inagibile. Allora sindaco, evidentemente niente, con questa linea cellulare non ce la facciamo, con Luigi Cannavicci sindaco di Campotosto, ma magari insomma ci torneremo poi nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, perché ovviamente come abbiamo raccontato non abbandoneremo queste zone colpite dal terremoto, che in realtà è un'area molto vasta, è quella che comprende l'Umbria, le Marche, una parte dell'Abruzzo, una parte del Lazio. Non l'abbandoneremo né su questo fronte, né andando a sentire i sindaci come vanno le cose, né dall'altra parte andando a sentire come va per gli operatori economici, perché c'è un'area molto più vasta al di fuori del cratere che sta soffrendo dal punto di vista economico, aree turistiche nelle quali sostanzialmente non vuole andare più nessuno perché sta facendo in pratica di tutta l'erba un fascio. Torneremo a parlarne, continueremo a farlo anche nelle prossime settimane, nei prossimi giorni. Nel traffico Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.